Friuli nel mondo, 91esima trasmissione dedicata agli emigrati. Villotte di primavera. Questo gaio suono di fisarmonici e biliporti, cari amici in ascolto, con il pensiero alla vostra terra, ricca di poesia, di calore e di semplicità, mentre le villotte che vi faremo ascoltare, piene di sentimento e di calde immagini, vi facciano per un po' sognare i verdi colli, i prati fioriti e il generoso vino del vostro Friuli. Questa villotta, dal titolo Gnot di Avril, ispirata alla serenità e alla pace, vi rechi il saluto e l'augurio festoso della primavera friulana. La villotta La Lusignute racconta che una lucciola brilla nella notte tiepida quasi fosse un astro che illumina e riscalda gli uomini dal cuore semplice. così riscalda il cuore la stella che, come dice questa villotta, splende in cielo nelle serene notti di aprile e che gli innamorati fissano per riconoscere in essa la sola, la vera stella propiziatrice del loro amore. Tempo di primavera questo, e le villotte Primavere Benedette e La Viarte sono una vera elegia alla bella stagione che sa suscitare nei giovani innamorati mille dolci pensieri. Thank you. infine vogliate ascoltare questa villotta intitolata Listeris, che anch'esse dal bel cielo friulano a voi tutti mandano un pensiero, un ricordo, un augurio. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 91esima trasmissione a cura di Ermete Pelizzari. Hanno collaborato il coro di San Lorenzo di Sedeliano, diretto da Leandro Plenizio, e il coro di Fedetto Umberto, diretto da Armando Del Fabbro.